opinione. Ripeto, come dovrei, se vuoi aiutarti, tutti quanti abbandonati da 27, allora sono più che convinto che studio. Perché? Perché mi piace la radio, allora sì, sono più che convinto, ma questo non sarà una cosa impossibile, non credo che succederà mai, che abbandonano tutti, sempre che qualcuno ci fa la frequenza. Va bene, va. Avanti Elio. Da oggi non c'entro più, ciao a tutti. E gli altri ritratto. Ehi vabbè, buonasera Campadino, me l'ha ascoltato anche a te. Ui, fatti cavolette, non c'è problema. Gianni, ripetila, è stato K2, compagnia di Giulio e coso Claudio ci sta abbandonando, è per sé, i primi già. Gianni, non parlare più da oggi, così vogliamo a Giulio a prendersi la patente. Ciao, capi K2, K2, boh, K2. Ciao Claudio, ben sentito anche a te. E anche a Gianni Doppio Ron, se mi ascolti, salutoni anche a te. Ma guarda, io ho sempre l'intenzione, però devo trovare qualcuno che mi prepari, qualcuno di pazienza. Io devo fare molto di mio, però ci vuole un po' di seguito. Guarda, inizierei anche subito. Qualcosa la leggo, qualcosa, però quando non c'hai... Sì, la Nuova Giardegna, dici. Ho capito, allora, insomma, studi un po' qua. Io ce l'ho tutta. Però... Io ce l'ho sempre quell'idea. Qualora trovassi qualcuno che mi segue nelle lezioni e mi fa un po' da maestro, inizierei subito. Va bene, rilanciamo a Gianni. Gianni, ci sei? Ciao, buonasera, qual buon vento. Erano mesi che non ti sento. Che fine avevi fatto? Sto studiando. E la verità non rientrava, era un po' non fare altro, perché era tutto abbandonato praticamente. E quindi stasera sono rientrato un po' presto, ho acceso, spolverato qua. E ho sentito, sono rimasto un po' all'ascolto per capire la situazione e poi insomma andiamo a salutare. Riprendi e fai girare. Cava. Ah, pensavo che se si avesse ripreso a lavorare. Sì, sicuramente sta lavorando, da me ho pensato, dai. Comunque saluto anche tutti quelli che sono entrati nuovi, avanti, Claudio, odio, e poi fai girare. Ehi, sono qua io. Va bene. Signori, c'è venuta la gira in radio, mamma mia. Non so, mi ha acceso anche un po' la televisione. Fai bene, K2. Studia, vai. Così. La famiglia aumenta, va bene. Siamo contenti. Giulio già va da solo, no? Nemmeno un mese, 25 giorni più o meno, ero andato a fare compagnia a mia figlia, sono voluto andare io a farmi una passeggiata, perché lì avevo un convegno, e allora vengo anch'io, praticamente dove stai? Sì, me ne vado in giro per Cagliari, da solo, perché vedo solo che fa la compagnia, ma fai come vuoi, e così ho fatto. Dunque, poi per quanto riguarda l'esame si vedrà. Gianni, tu cosa, che intenzioni hai tu di studiare? No, a me non mi interessa. Allora siamo in due, almeno per il momento siamo in due. Lavora, riprendi io. vedrai là, che ti fa lo scherzo anche, anche Giulio, in sordina, in sordina qui, e fa bene, fa bene. Lo so se lui sta studiando, ha detto che c'è il libro, perché c'è il libro. Perché lui legge parecchio, diciamo. Appunto per quello, è più facilitato anche per lui, no? Ma lei ci fa lo scherzo. A proposito, io non ho più sentito a Roberto. Strano, Roberto resta che non è 327, è un po' strano, eh? Io non l'ho più sentito. Tu già hai sentito, vai. No. Io l'ho visto solo al computer e basta. Quando? Ma non siamo visti da benissimo, ma è impegnato il lavoro, hanno praticamente, sai, il padre non c'è più in officina, quindi sono impegnatissimo il fratello, ho visto Giulio per quello che non tenta. Siamo visti anche l'altro giorno, sono andato a provarlo, io passo sempre in officina. Ho capito, sì. Purtroppo mai tocca a loro, ai figli. Giovannino già ne ha fatto anche lui, già l'ha tirata la carretta, altro che si è lavorato da sempre. Io conosco Giovannino, senza esagerare, una sessantina d'anni, forse anche di più. Io mi ricordo, lui è di 7-8 anni, non lo so di più. E giocava lui al calcio, giocava. E io ero bambino e andavo a vedere le partite, poi col tempo abbiamo fatto le partite anche insieme, so che io sono cresciuto, lui naturalmente, essendo più anziano di me, poi ha avuto il modo di fermarsi per quanto riguarda il calciatore, però è stato sempre nell'ambiente del calcio, più di 60 anni lo conosco, è una cosa del genere, guarda. Mi ricordo, bambino, ragazzino, andavo allora al campo dei soldati, lì, alla colonia Bernaggio, e lo vedevo giocare, poi avevo iniziato io a giocare, nel frattempo ci incontravamo, eccetera, eccetera, e così via. Infatti l'ultima volta che l'ho visto era subito dopo che purtroppo era mancata la moglie, subito dopo l'ho visto. Pazienza, andate allo sì. Avanti, K2. Conosciamo, no? No, non penso a K2, assolutamente, prima che mi ricordi io no. No, perché? No, mi stava venendo in mente che una mattina io stavo uscendo dal mio cancello e ho trovato una coppia lì all'ingresso e allora il tipo si è avvicinato e mi ha chiesto: ah, ma lei è radiamatore, perché ha visto le antenne, no? Anche io sono radiamatore, mi ha detto, ma io non ho radiamatore, siete mamma. Si stava cercando casa in zona dentro e si è presentato come nome e cognome, era radiamatore anche lui, quindi aveva, si è andato a 35 anni, ecco, quindi ho pensato a te, visto che ma magari no, negativo, no. Non pascolo con le donne lì, anche perché sono sposato, c'è anche mia moglie quando vede chi è questo, no, assolutamente, no, perciò bisogna dire questa, ho quasi 50 anni, no, non siamo mai conosciuti, l'unico che conosco lì vicino è Giovanni, poi si chiama Cappellano, perché ha preso, non mi ricordo, si chiama Giovanni, vabbè, che ti avevo detto che conosco perché l'ho stato da un amico mio, la campagna, vabbè, riprenditela Giulio. Ok, vabbè, adesso comunque siete paesani, dunque va bene, se prima o poi avrete modo di conoscervi senz'altro. Non si sfugge intanto, che prima o poi ci conosciamo sempre tutti. Sempre quando nemmeno me conosci o K2, forse nemmeno Gianni. Diciamo che conosco quasi tutti, però alcuni non li conosco, tipo ad esempio te, poi chi è che non conosco? Ah, lo conosco Benito. Benito non lo conosco, non conosco nemmeno Marco Condor, poi altri ci sono, non mi ricordo. tutti gli altri già li conosco. Avanti Gianni. Parlo Massimiliano Bulldog. Sì, non lo conosco, Massimiliano Bulldog non lo conosco. Mio fratello lo conosci, perché ha lavorato da mio fratello, ma io a lui non lo conosco. No, io quelli che ho nominato li conosco tutti. Ok. A Elio va bene, a Elio glielo conosco. A Claudio glielo conosco e tutti gli altri glieli conosco. Chi è che mi manca? Nessuno mi sembra. Boh. Conosco tutti. No, non conosco nemmeno la corsa. Non lavoro. Che è che mi sono 20 anni lo buggi. Antonio, non lo conosco Antonio Grotti. A Fabrizio sì, ma Antonio Grotte no. Qualcuno ha detto la vecchiaia. Saranno sì. E pianta che fa di liberare la vecchiaia. Si dopo il vacuno è chiuso e dopo guarda lì, sono affari suoi. Ci sta bene. Mamma mia, amici, se vi non dici sassarese. Radio, deve trovare il modo e il tempo per cercare di piacere. Navis. Va bene, va bene. E adesso ne sto facendo un'altra, però non ho più supporti. La proverò con un pezzo di tubo, sempre per i 10 metri. Fammi sapere cosa ti serve, te lo faccio vedere. Cristo 2003 o 2004 2003 o 2004 la prega figlia. 2006, tre anni dopo. Dopodiché l'hanno tolta, quindi mi sembra un po' strana la cosa. Allora in prima, c'ho tutto, quando l'hanno tolta? Intorno al 2000, 2002. Allora sarà in quegli anni lì, sì, perché c'era la telegrafia ancora, avevo passato la trasmissione e sono andato male in ricezione, e allora sarà nel 2002, sono quasi al limite forse, ma sono in quegli anni lì ancora. Sicuramente. Vabbè. Funzionate bene la telegrafia, è riuscito a trasmettere 140 secondi, 140 battiti per secondo al minuto. Era una cosa, una macchinetta, dottore, una macchinetta. Io ero intorno ai 60, 70, non di più, e era 140 al minuto, era una macchinetta. Bisogna essere bravi anche ad ascoltarle, anche devi essere bravi anche in quello, non è solamente perché tu batti veloce, però io devo essere bravo anche a seguirti, se no ciccia. Prima quanto battavano, mi sembra 40 battiti di al minuto battavano, vero, per essere promosso, così 40 battiti battavano. Sì, 40, 45, ma infatti com'è così il problema, perché mi ricordo quando abbiamo dato noi nel 93, cioè nel 96, 93 voluto più 0, 96 abbiamo dato gli altri, e c'era questo tenente di fascio, perché chi trasmette è un tenente di vascello della Marina Militare, radiotelegrafista, quindi un ufficiale della Marina, e appunto ci aveva detto chi è che rimane tra i 40 e i 50 come trasmissione, perché diversamente devo o diminuire io mentre sto trasmettendo, o facciamo delle copie, praticamente dividiamo l'esame, chi è più veloce in trasmissione io trasmetto più veloce, chi è meno veloce trasmetto meno veloce. E invece erano tutti su quella linea lì, erano tutti sulla linea di Tore, tutti oltre i 70-80. E quindi quando questo ufficiale della Marina si è messo a trasmettere, c'era allora vi faccio fare due risate, c'era allora anche al compito, perché era già passato il W0 già nel Rivoassove, e quindi era venuto anche lui a dare gli esami, ed era proprio nel banco a fianco a noi, quando l'ufficiale ha detto allora mettetevi le cuffie, facciamo una prova di tasto e via. Va bene, ha fatto la prova di tasto, come noi abbiamo detto, abbiamo sollevato tutti la mano per l'ok alle cuffie, l'ho iniziato a trasmettere. Io in primo momento, soprattutto sull'A e la N, che sono, chi conosce la telegrafia, sono praticamente al contrario, no? Di ta e l'altra è ta, ti. Quindi, cazzo, sai, un po' ti incepi, un po'. Cazzo, mi dico a Gianni, non è solo scrivendo, vu. Cazzo, gli ho detto, e poi da Gianni, gira, fa Gianni. Scrivendo. E vuol dire che questa volta ha studiato, perché era 10 anni che andava, attenzione. Vabbè, finisce il compito, ci ritira tutto, questo comandante controlla tutti i compiti, io mi pare erano ammissibili 5 errori in ricezione, io mi pare ho fatto 3 errori, Tore 2, insomma eravamo tutti così, controlla tutti, si alza in piedi, e signor, lo sapete come si chiama il cognome, venga un attimo qua. Dica, ha visto questa volta, mi dice che cosa ha scritto, che cosa ha decifrato da ciò che io ho trasmesso. Era a riposo, se non lo sa lei che stava trasmettendo, cosa ne so io? Fuori! L'interrogazione che gli ho fatto. Incredibile, ma è sempre stato una saga, ma te la conosco, sì. Tu pensa che la cognata abitava di fronte a dove abitavo io prima, ma era la Jones, raga. Mi faceva dire io da affacciata alla finestra, e lui che parlava lì, che era sotto casa praticamente, sentivo tutto quello che diceva, per me era una giunfa, con rispetto naturalmente, per carità, con rispetto per la persona, sia ben chiaro, però io ridevo sotto i baffi, perché lui faceva certi discorsi, vabbè, lasciamo quello, dai. A Matilio. Non faceva tenerlo. E vabbè, va. K2, ci sei sempre, sì. Ehi, caspa, c'ho ancora qua. Ehi, vabbè, qualche altro minuto poi stacco. Bella. È la battuta. Ehi, vabbè. 40 battiti al minuto, io ero negato proprio in recensione, devi avere, perché la telegrafia poi quando è una musica devi avere l'orecchio, io proprio in recensione, io ero sordo peggio di una campana, non riuscivo a decollare. Questo lo sapevamo. Andare molto lento, riuscivo lì a decifrare qualcosa, ma molto lento, 25, ma di più a 40 battiti per me era già eccessivo. E comunque a me mi piace tantissimo la telegrafia. È una cosa che proprio mi attira perché è difficile, perlomeno per me, è che non c'ho trasmettitore, perché l'unico che avevo che poteva andare in telegrafia non trasmette, se no avrei continuato lì ad esercitarmi, però non si può fare, però mi piace tantissimo. Ok, ma Gianni c'è ancora? Gianni? Sì, ci sono, un attimino di QRX, dai, che sto facendo roba. D'accordo, Luca? Vabbè, Luca è passato a fare bobine. Capito, vedi com'è la questione. Vabbè, però non dispero, appena sarà possibile, riapro dei corsi lì presso qualche associazione lì e mi scriverò. E insomma, continueremo a insistere, adesso non c'è più la telegrafia, quindi si tratta solo di fare pratica sui quiz, di studiare. Vedremo, va, c'ho tempo, speriamo entro i 70 anni di farcela. Sì, dai, magari ci si diventi, se ne ho fatto il corso, qualche cosa devo stare ancora, va. Magari ci vuole di meno. Niente, mi lascio impegnarsi, è giusto. Vabbè. Allora, va. Papo, va, andiamo di altro. Luca, hai sbagliato tutto il passaggio, qua. Non sei uscito di radio, beh, sei uscito tutto di sommato, come va? Elio, sono di sommato, adesso faccio di sommato. Elio quello, non sono io. Ah, Elio, aspettavo che tu. Non sentivo la voce, non la sentivo, non stavo nemmeno guardando il segnale, dunque, ho capito, e vabbè, e allora adesso mettiti di buona volontà o K2 e studia cosa vuoi che ti dica, ma comunque adesso è anche più facile, non c'è più la telegrafia, che studi quello che devi studiare, qui ti è il regolamento e dunque dovresti essere anche agevolato, perlomeno suppongo che oggi ci sia una grande agevolazione, perché prima la telegrafia era la cosa più difficile che c'era prima, no? E va bene così, avanti qua. Vediamo se può entrare qualcuno. No, ma c'è sempre qualche domanda, è difficile che la tolgano dal computer perché sono 3.000 domande e risposte e fanno le schede dal computer, quindi però può capitare che ci sia qualche domanda anche sulla telegrafia, capito? Per dire, sul tratto del telegrafo a cosa appartiene la linea punto, e ci sono i vari ABC e tu devi mettere quale sigla appartiene, capito? Qualche volta capita, adesso sono più tosti sulle normative, sulle cose elettronica generale, proprio un po' mista, ma niente di particolare, basta che uno studio si metta un po' in testa di doverlo fare. Io vi ricordo che nel 1993 l'ho fatto per la detenzione e l'uso, più per la detenzione che per l'uso, perché io sono cresciuto dal 2000 in poi come radioamatore, sino dal 93 al 2000 io praticamente usavo pochissimo la parte amatoriale, ero sempre qua in 27, nonostante siano passati tantissimi anni, continuo a fare sia una che l'altra, questo è scontato, però io sono cresciuto dal 2000 in poi, perché dal 93 al 2000 a me non mi interessava proprio niente, tant'è vero che antenne non ne avevo un dipolo giusto per ascoltare e basta. Però la detenzione era la cosa che a me mi interessava più di tutti, perché io non ho mai avuto baracchini, ho sempre avuto l'aria HF, quindi la detenzione per me era molto importante, perché ero tartassato giorno e notte, quindi solo per quello. Poi chiaramente la voglia ti viene mangiando e quindi chiaramente mi sono un po' messo in carreggiata sia da una parte che dall'altra. Vabbè, da questa parte non c'è bisogno di mettere in carreggiata perché la radio ho usato sempre questa, è una vita che mi sentite con questa radio, e dall'altra parte mi sono organizzato un po' meglio tutto qua. Va bene, capito, allora mettiti sotto e via. Va benissimo, ok, quindi Gianni Querix, Luca, vediamo se riprende, Luca? No, allora riprendi tu e le fai girare per Giulio, stavi facendo nuovamente quel difetto che ti fa quella radio ogni tanto. Ne sono accorto, infatti l'ho staccata un attimino, e sono passata all'altra, vabbè. Va bene così, dai. Oh, io mi devo staccare 5 minuti e devo fare una cosa che mi fa, mia moglie, che devo aiutarla. Mi stacco 5 minuti e poi riprendo dopo, dai. Risentirci più tardi. Ciao Giulio, riprendi tu. Ok, ciao Elio, salutoni. Ci sentiamo le prossime. Grazie per le chiacchierate e per la compagnia soprattutto. Ci sentiamo le prossime. Sì, beh, in effetti è così, K2, tu sei giovane ancora, c'hai volontà, fallo, vedi, l'errore tuo, magari visto che avevi, o che è meglio, che hai avuto quella intenzione della patente, avresti dovuto studiare prima, magari prendevi la speciale, quella magari ci passavi, perché allora non avresti dovuto fare l'esame di coso. Così poi ti avresti trovato la patente normale come adesso, no? Quella integrale, che poi prima era speciale, c'erano due tipi di patente, no? E adesso ormai è unificata, dunque avresti dovuto farlo prima K2. Prima ci ho provato, ma non è andata. Io è chiaro, passando soli qui avrei ottenuto la speciale, invece non è stata nemmeno quella. Vabbè, ma comunque l'idea c'è, insomma, continuerò a fare, c'è un po' più di tempo, ce l'ho, non lavorando chiaramente, mi posso gestire meglio il tempo, a parte... A dopo, ciao Claudio, ciao a tutti. Ciao. Insomma, così sporadica, e più che altro io corro a risolvere i problemi degli altri, fratelli, cognati, queste cose qua, insomma, Ma cos'hai, prendi? Le castagne dal fuoco. E poi mi capita a volte di fare qualche servizio di security, sempre in nero e insomma. Però già lo porto avanti quel discorso perché mi interessa tantissimo. Non mi ha detto Claudio, non è nemmeno per chiacchierare, per... Però sai, è bello averla, per me io la vedo così, cioè è un obiettivo che, insomma, uno stimolo per me, è un completamento della passione, capito? Cioè io mi metto in discussione, sai, anche non accetta già e viene tutto in salita, Come ho preso la specializzazione di muratore, mi sono rimesso lì a studiare, c'è da matematica, geometria, c'è da inglese, però lo volevo, mi piaceva e ho tenuto la specializzazione, quindi a discapito di qualche giovincello che se l'ha presa a gioco, io ho passato l'esame, mentre qualcuno è venuto a palo. Proprio impegno, quindi ho l'impegno, se lo vuoi una cosa la ottieni, Giulio. Beh, ovviamente quello sì, l'impegno ci vuole, tutte le cose ci vuole l'impegno. Sì. Vabbè, dopo mi dici che quando fai il servizio security, che radio hai, se ce l'hai la radio in quel caso, e dopo me lo dici, adesso facciamo girare. Gianni, ci sei? Sì, stavo dicendo, K2, la radio ce l'hai quando fai servizio? Che frequenza usa in quei, se per caso ce l'hai? Ma guarda, io qualche anno fa lì... La frequenza civile, Giulio. Non ti so dire in che frequenza eravamo. L'avevo lì. È in 160 mega. Chiaramente quando vado a fare questi servizi qua c'ho dei clienti, diciamo, che insomma è tutto in nero, quindi figurati, porto le mie cose personali, diciamo, però niente radio, niente radio. E allora? Però lì l'ultimo servizio che ho fatto ufficialmente lì, non lo so, scusate questa era qua, non avevo frequentimento lì a stabilire la frequenza. Adesso niente, adesso telefonino in caso di necessità, però abbastanza tranquilli più che altro e accompagno delle persone a volte, insomma un po' di ho capito capito. Ma voi dai, io vi lascio, le 8-7 minuti ci sentiamo alle prossime, sono già stanco di stare seduto qua, vado a fare una passeggiata magari. Ciao Claudio, grazie per la chiacchierata, ciao K2, Luca se sei ancora all'ascolto, Gianni non so se ci sei, ma suppongo io, e io tutti quanti, insomma, saluto a tutti, io ascolto il vostro finalino e poi chiudo, dai, se prendi Claudio, poi chiudo, ciao. Ciao Giulio, buona serata, e anch'io se mi stacco devo mangiare il cane. Faccio una passeggiatina, poi ci andiamo noi. Ok, ciao, grazie a te. Io quando ho 2 minuti, poi ci sono, se non vi ascolto, sto facendo altro. Va bene, ciao, alle prossime. Vediamo un po' se c'era anche Marco che si era allontanato, vediamo un po' se c'è. Mi sento Filippo, sì, sta già sbuffando che c'ha fame. Cosa stai facendo? Sofia, mi sei. Cavallo, bari, Marco. Eia, c'ero anch'io, ero ancora X. Va bene. mi sono sentito a parole, ero mezzo dormito, mi stavo ascoltando, ogni tanto mi assopivo, ogni tanto ero sveglio, dai, buonasera a tutti. Eia, va bene, Giulio, allora è andato in QRX per cena, Luca, vediamo se ci siedo, poiché mi staccherò anche io, salutandovi tutti, ciao K2, Eio, Giulio, Luca, te, Marco, Gianni, che si è allontanato un attimo, vediamo un po', Luca. Sì, va bene, va bene. Allora, io vi auguro buona cena a tutti. Ci sentiamo più tardi se coincide, altrimenti alle prossime. Bye bye. QRX per me. Ciao a te Marco, fai girare. Ciao Claudio. Buona serata, buona cena. Chi c'è rimasto? Gianni, sei rientrato. Ciao Claudio, ciao anche a Giulio. Buona serata e buon weekend, dai, se non ci sentiamo. Sono qui, dai, sto facendo lavoretto, ma sono qui. Ok, ciao a tutti, ciao Marco, ciao a tutti, ciao. Ciao Giulio, ciao, buon pomeriggio, buona passeggiata, anche a te Claudio, buon proseguimento di serata e ne approfitto anch'io allora. Là. Ciao Marco Condor, ciao Gianni, doppio runa, alle prossime a tutti, ciao a tutti. Ciao. Ho già quella stazione Stabo, è degli anni 80, ricondizionata dal venditore. Ah, così è. Sì, c'è scritto, ricondizionata al venditore, bisogna vedere anche come è ricondizionata, anni 80, non ne fanno più stazioni base ormai. Cava, già le fanno, va. Già le fanno, qualcuno c'è ancora, se va in America ha voglia che ne fanno, cava, vabbè, da. Comunque mi piace, bellino. Bisogna vedere se funziona, va bene. AMFM, c'è proprio scritto in tedesco. Sì, si può prendere, se funziona tutto si può prendere, ma quello in Germania, una volta che arriva è da ritenere, anche se c'ha problemi. È sempre un punto interrogativo quello. Non per niente, perché dalla Germania qua sono 18 euro, 17-18 euro, dall'Italia alla Germania sono molti di più, l'Italia è un paese parassita. Io Luca, e questa antenna che hai tu com'è? Tipo canale pesca? Non c'è neanche Luca, tutti fuori, vabbè dai, ciao anche Giulio, sta andando via. Già non c'è più nessuno, dai, cosa andiamo a mangiare? Vabbè, noi abbiamo mangiato la mozzarella, devo stare leggero stanotte. Ci sentiamo, dai, stavi bene, buona serata a tutti. Io ciao, io ci sono tardi, tu vai là. Buona serata, ti volevo dire buona un'altra cosa, non te la dico. Qua tanto non ci credo, non me ne frega nulla anche se me lo dici, perché una volta che me l'hanno detto ho preso la gelata dei pisci. Infatti sono credenze popolari e basta. Se uno deve pescare pesca, se non deve pescare non pesca. Va bene, dai. Ciao a tutti, QRX per me. Comunque pescatori ci credo, perché una volta stavo uscendo per pescare e ci ho detto buona pesca, grazie, grazie, me l'hanno rimandato. Dove ti metti già, dove vado anch'io? Non lo so se vado lì vicino alla torretta. È positivo, no? Ma ci vieni? Io ho preso l'esca. Io ho preso l'esca e adesso mi mangio un morso, poi scenderò più tardi, però là. No, adesso perché forse ne faccio la montata. Sì, c'è il mente calata, Similiano, stasera è buona. Sì, infatti, pagisci. Fabio, dai, ci vediamo là se vieni. Io, andrà bene, va bene. Ciao. Ciao.